fare tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontarsi. Amici di Ristoradio Convento, benvenuti, benvenuti se ci state ascoltando dall'inizio e bentornati invece se già ci state seguendo da un po'. Quello che non cambia, sia che ci stiate ascoltando per la prima volta che ci ascoltiate da più tempo, è il motivo che ci porta a fare questa intervista e a fare queste registrazioni, cioè quello di condividere con tutti quelli che sono qui questa sera un motivo di festa e un forte motivo di divertimento. Abbiamo qui un gruppo bello numeroso, misto, uomini e donne, più o meno 50-50, forse c'è un uomo in meno, vabbè, più o meno 50-50. E quello che conta è che sono qui tutti per stare insieme e festeggiare un qualcosa di veramente grande e importante. Vai, diteci un po' se vuole un portavoce o vabbè, diteci voi. Serata fantastica. Oh, ok, allora da dove venite intanto? Bergamo. Bergamo, molto bene. Cosa state festeggiando questa sera? Festeggiamo i coscritti, siamo del 1976, carichi sono 43 e non sentirli. Wow, bellissimo, bellissimo. È il rappresentante, lui è il portavoce, come se era in classe, il rappresentante di classe. Allora, 1976 da Bergamo, Bergamo città o paesino? Alta valle, alta valle, dipende alta valle. Cosa si intende, perché c'è chi dice Bergamo basso, Bergamo alta, città bassa, città alta. Vedi tu, facci capire tu. Allora, siamo di Bergamo alta, nel senso di alta valle, perché città alta fa parte sempre di Bergamo. Di Bergamo, basso. Ok. Noi siamo dell'alta valle seriana. Alta valle. Media alta valle seriana. Media perché alta c'è valle. Gente tipo di Clusone, ad esempio, che sono è alta valle tendente Val di Scalve, per esempio. Ok. Quindi medio-alta valle seriana. Okay, è una... siamo della media, noi... è una definizione. Io sono di Schilpari, alta valle. Alta, e poi alcuni anche della alta. Ok, ok. Allora, diciamo prima, più o meno metà uomini e donne. Quanti siete stasera in totale? 11. 11, molto bene. E riuscite a trovarvi tutti gli anni? Un appuntamento che vi date fisso? È un appuntamento fisso. Devo dire che quest'anno purtroppo ci sono stati tanti deficit, tanta azione, non so che cosa, però noi sempre presenti, famiglia, gli anni passano per tutti, ma noi sempre qui presenti. Bravi, bravi, bravi, è bello. Da quanto tempo vi trovate? O riuscite a trovarvi? Da sempre, direi. Da sempre, quindi da quando avete finito? Dal 18esimo. Da 18 anni in poi, una volta all'anno riuscite a organizzarla. Bello, bello, complimenti. E cosa ancora vi tiene uniti nonostante gli anni che sono passati? Cioè, cosa vi fa trovare la gioia e la voglia di ritrovarvi? L'amicizia. L'amicizia, che è importante. È la bellezza, dice lei. Bellezza vale solo un gruppo bello, vabbè, in generale, dai. Un gruppo bello che direi ci vuole. E volete salutare qualcuno? Volete mandare un messaggio? Un grosso saluto alla Antu che sta cercando parcheggio. È in macchina. Fondamentale, insomma, è un ruolo importante. La Antu numero uno. Anto numero uno. Organizzatrice. Ah sì, è il fulcro, il fulcro. Il punto di riferimento. Va bene, va bene. Allora salutiamo anche noi l'Anto, sperando che trovi parcheggio a questo punto. E salutiamo tutti voi, sia quelli che sono qui in studio, sia quelli che sono rimasti fuori. E quindi appuntamento ai prossimi ritrovi, visto che è diventato ormai fisso. Dobbiamo e vogliamo aspettarvi anche prossimamente. Grazie mille alla classe 1976. E ancora buon divertimento. Ciao ragazzi. Grazie.